Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Noi abbiamo cercato di costruire un decreto che garantisse due cose. Da una parte la sicurezza della collettività, sia per quanto riguarda la fase dell'infanzia che la collettività adulta, e dall'altra parte cercare anche di creare il minor possibile disagio ai cittadini, quindi metterli nelle condizioni di svolgere questa azione, che è un'azione importante per i loro figli, in tranquillità e senza affanni. Questo ha affermato, care ascoltatrici, cari ascoltatori, la ministra della Salute Lorenzin a proposito del decreto sulle vaccinazioni obbligatorie che oggi è stato firmato quindi dal Presidente della Repubblica Mattarella. Ne parleremo anche per capire, insomma, quante sono queste vaccinazioni obbligatorie, in che periodo, a che età farle ai bambini, relativamente a quali malattie sono previste, insomma. E poi troverete poi tutte le indicazioni precise anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che potete usare sia per i vostri commenti sia per andare a vedere un po' tutti i termini, insomma, di questo decreto. Ne parleremo comunque con un esperto, con un virologo, così come ci occuperemo di legge elettorale, visto che sembravano tutti d'accordo i principali partiti in Parlamento, quindi PD, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Lega. Adesso oggi è stato un gran caos, nel senso che nel voto segreto sugli emendamenti un centinaio, poco meno, sono stati francotiratori, cioè quelli che nel segreto hanno votato il contrario di quanto fosse previsto. Poi c'è Grillo che ha frenato, sembrava d'accordo, oggi ha detto no, però voglio anche che il voto ulteriore degli iscritti online, insomma, traballa questa intesa. Parleremo ovviamente anche dell'attentato, il doppio attacco che c'è stato in Iran, perché è proprio in Iran, paese islamico. E poi naturalmente anche aggiornamento della Gran Bretagna sull'attacco terroristico, e in particolare domani si vota, ci sono le elezioni politiche anticipate, in che clima? 349-238-6666, il numero per i vostri messaggi, o WhatsApp 349-238-6666, o pagina Facebook di Effetto Notte. Degli argomenti poi con gli ospiti ce ne occuperemo tra poco. Intanto, come sempre, vi racconto in sintesi la giornata. Terrorismo, attacco dell'ISIS a Teheran, nel cuore del mondo sciita, i morti sono almeno 12, morti anche 5 terroristi uccisi o a loro volta suicidatisi. Gran Bretagna domani al voto nell'incertezza, monta la polemica sul flop della sicurezza, trovata intanto l'ottava vittima. Stati Uniti, nella dichiarazione scritta con cui aprirà domani la sua audizione in Senato sul Russiagate, l'ex capo dell'FBI Comey afferma: Trump mi chiese di fermare le indagini su Flynn. Legge elettorale, i franchitiratori minacciano l'accordo, Grillo frena e dice la vogliamo ma votino i nostri iscritti. Vaccini, via libera al decreto legge sulle vaccinazioni obbligatorie, il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato l'atto che lunedì prossimo sarà in Parlamento. L'inchiesta Consip, il vicecomandante della NOE è indagato per depistaggio. Tragedia ad Arezzo, muore una bimba di un anno lasciata chiusa in auto, dimenticata dalla madre che era andata a lavorare dopo aver parcheggiato. L'annuncio della rivista Nature, l'uomo sapiens è più vecchio di quanto si pensasse, di 100.000 anni, mangiava gazzelle e uova di struzzo. Calcio, a Nizza la nazionale sfida in amichevole l'Uruguay. Partiamo quindi dall'attacco terroristico in Iran che ha provocato almeno 12 vittime. Morte all'America e al suo servo, l'Arabia Saudita. Questo il coro improvvisato ai deputati iraniani all'interno del Parlamento a Teheran nei momenti dell'attacco kamikaze sferrato da 4 terroristi entrati in quello che era considerato il luogo più sicuro dell'Iran, travestiti da donne e armati fino ai denti. L'attentato è stato sventato dopo 4 ore da un blitz delle forze speciali. Sotto attacco in simultanea un altro luogo simbolo di Teheran, il mausoleo dei Khomeini, preso d'assalto sempre da 4 terroristi, tra i quali 2 kamikaze. 12 morti, una quarantina i feriti, il bilancio è il duplice attentato, il primo al cuore dell'Iran da parte dell'ISIS, che non solo ha rivendicato ma ha pubblicato online un video dell'assalto al Parlamento. I Pashdaran, le guardie della rivoluzione iraniane, puntano il dito contro Trump e il suo alleato, ovvero l'Arabia Saudita. Si sono incontrati solo una settimana fa, affermano in un comunicato, e il coinvolgimento dell'ISIS mostra la loro complicità. L'Iran è stato minacciato più volte dallo Stato Islamico e dallo stesso califfo a Baghdadi, perché paese sciita e in quanto tale nemico numero uno dell'ortodossia sunnita, quella dei gruppi estremisti come ISIS e Al-Qaeda. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi torneremo naturalmente con un'analisi di un esperto sul perché di questo attacco terroristico islamico in Iran, appunto, probabilmente questa guerra tra sciiti e sunniti. Ora in Gran Bretagna, domani il Regno Unito va al voto in un clima di incertezze dopo il referendum sulla Brexit e di tensione naturalmente per i raid terroristici che hanno insanguinato il paese da Manchester a Londra. La prima ministra May promette il pugno di ferro, ma il suo avversario, il laburista Jeremy Corbyn, la incalza e monta la polemica sui mancati controlli preventivi antiterrorismo. Il terzo killer del London Bridge, l'italo-marocchino Youssef Zagba, non fu fermato malgrado la segnalazione dell'Italia. Abbiamo parlato ieri, intanto oggi il capo della polizia Gabrielli dice: noi abbiamo le carte e la coscienza a posto. Ultime battute per Theresa May e Jeremy Corbyn, con quest'ultimo in grande rimonta nei sondaggi, quasi alla pari con la Premier, che 50 giorni fa invece, quando le elezioni furono indette, sembrava non avere rivali. Entrambi insistono sui loro cavalli di battaglia oggi. La May sulla hard Brexit, lo strappo duro dalla UE. Sono l'unica, dice, che può negoziare un accordo vantaggioso per la Gran Bretagna. I Tory, ripete invece il leader dei laburisti, ci porteranno altri 5 anni di austerità. Noi vogliamo investire di più in educazione e sanità. Gli attentati di Manchester e Londra, che hanno dominato e reindirizzato la campagna elettorale, scivolano quindi oggi un po' fuori dal dibattito, ma non dalla cronaca. Un'aggressione con coltello a una donna oggi nella capitale ha fatto scattare un nuovo allarme terrorismo. Poi la pista è stata esclusa. Mentre tutte le 8 vittime dell'attentato sul London Bridge sono state riconosciute, 29 i feriti, 10 ancora in condizioni critiche. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Siamo ancora sulle notizie dall'estero e negli Stati Uniti adesso, dove l'ex capo dell'FBI, James Comey, che era stato silurato da Trump, nella dichiarazione scritta con cui aprirà domani la sua audizione in Senato a proposito del Russiagate, cioè l'ingerenza, la ipotetica ingerenza, presunta ingerenza della Russia nelle elezioni americane, in cui sarebbe coinvolto anche Trump, Comey afferma in questa dichiarazione scritta: Donald Trump mi ha chiesto di lasciare andare le indagini su Flynn. Vi ricordo che Flynn era stato nominato da Trump consigliere per la sicurezza nazionale, era un generale in pensione che però poi si è dimesso, è stato fatto dimettere. Insomma, legge elettorale per tornare in Italia, l'intesa rischia di traballare, c'è tensione fra i partiti che avevano trovato l'accordo sulla riforma della legge elettorale. Nel voto sulle pregiudiziali già si contano 66 voti mancanti al patto per la riforma, quindi 66 franchi tiratori. Il Movimento 5 Stelle presenta la proposta di modifica in tema di preferenze nel listino e sul voto disgiunto. Il PD dice di no, poi richiama la compattezza, altrimenti fa sapere che tornerà alla sua proposta iniziale, che era il Rosatellum. Grillo dice di volere la legge, ma chiede un nuovo voto online degli iscritti. Renzi attacca, dice: 2 giorni e hanno cambiato idea sulla legge che hanno voluto e votato. In attesa comunque della consultazione 5 Stelle, i Dem si dicono disponibili al voto finale a lunedì, ma vedevo poco fa la giornata di pochi istanti fa che il voto finale sarà martedì. L'inchiesta Consip adesso, il numero 2 del No, è indagato per depistaggio. È durato 1 ora e mezza l'interrogatorio del vice comandante dei carabinieri del NOE, Alessandro Sessa. Il militare è indagato dalla Procura della Repubblica di Roma di depistaggio. Secondo il procuratore capo Giuseppe Pignatone e il procuratore aggiunto Paolo Ielo, avrebbe detto informazioni false nel suo precedente interrogatorio di maggio. Sessa, infatti, aveva detto di essere venuto a conoscenza dell'inchiesta Consip il 6 novembre scorso perché informato dal capitano del NOE Scafarto. In realtà, il contenuto di alcuni messaggi attraverso WhatsApp dimostrerebbe che il vice comandante del NOE era venuto a conoscenza dell'indagine sui vertici di Consip già a giugno del 2016. Il particolare non è di poco conto, perché proprio nell'estate del 2016 sarebbe cominciata una presunta fuga di notizie che poi ha portato nel registro degli indagati il comandante generale dell'arma Tullio Del Sette, il comandante della Legione Toscana Emanuele Saltalamacchia ed il ministro Luca Lotti. Per i PM, infatti, sarebbero stati loro ad aver informato Luigi Marroni, AD di Consip, che la magistratura stava indagando sugli appalti della centrale acquisti della pubblica amministrazione. E adesso parliamo di vaccini. Questo era il pezzo di Ivan Cimarussi del Sole 24 Ore. Adesso invece parliamo di vaccini. Dicevo, via libera al decreto legge sulle vaccinazioni obbligatorie. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato l'atto e poi lunedì prossimo questo atto sarà in Parlamento. Ne parleremo tra poco con un esperto. Intanto adesso invece parliamo di una tragedia di cui ogni tanto avviene qualche caso. Ad Arezzo è morta, dimenticata in auto, una bimba di 18 mesi. Era uscita di casa la madre con la precisa intenzione di accompagnare la sua bambina all'asilo nido. Qualcosa nella ripetizione quotidiana di quel gesto è andata storta, e così la mamma ha raggiunto l'auto con la bimba a bordo, dopo aver lasciato la bimba a bordo ha raggiunto il posto di lavoro, ha parcheggiato la vettura dimenticandosi della bambina e al suo ritorno, dopo diverse ore trascorse in ufficio, l'ha trovata morta, chiusa nell'abitacolo. Perché quindi ogni tanto purtroppo succede che un genitore si dimentichi del bambino piccolo in auto? Sentiamo Bernardo Carpiniello, presidente della Società Italiana Psichiatria, intervistato da Adriano Palazzolo. Esperienza comune che io possa, diciamo, per esempio compiere anche atti complessi come guidare da un posto all'altro totalmente assorbito dai miei pensieri, perché la nostra mente ci dà anche la possibilità di tenere conto a livello subliminale dell'ambiente, evitando ostacoli, seguendo i percorsi giusti, fermandoci ai semafori, ma allo stesso tempo senza di fatto esserne in quel momento coscienti consapevolmente, perché quasi sempre io sono assorbito nel rimuginare, nel ripensare, nel valutare, diciamo così, un altro contenuto mentale prevalente: preoccupazioni economiche in ambito lavorativo, preoccupazioni in ambito familiare, preoccupazioni in ambito sentimentale. Quindi non occorre scomodare necessariamente la, diciamo, patologia per far comprendere certi meccanismi, come possono accadere. Purtroppo. Adesso parliamo invece di un annuncio della rivista scientifica Nature. L'uomo sapiens è più antico di quanto si pensasse. Il ritrovamento di alcuni fossili in Marocco fa slittare a 300.000 anni fa le prime tracce della sua esistenza, cioè 100.000 anni prima della data di nascita ufficiale. Gli utensili e le ossa di animali ritrovate hanno permesso anche di ricostruire la sua dieta a base di carne di gazzella, zebra e uova di struzzo. Questo è quanto emerge da due ricerche pubblicate appunto sulla rivista Nature e coordinate dall'Istituto Max Planck di Antropologia Evolutiva di Lipsia. I fossili ritrovati nel sito archeologico di Jebel Jerud riscrivono quindi le origini dei sapiens, che prima di emigrare in Europa aveva già affrontato viaggi e migrazioni in Africa, dove si era stanziato un po' in tutto il continente. E poi citiamo anche questa asta record: la collezione d'arte di David Rockefeller va all'asta. Christie's, la casa d'asta Christie's, si occuperà della vendita di più di 2.000 oggetti del banchiere filantropo, inclusi pezzi di arte moderna, porcellane cinesi, quadri americani, mobili europei. Il ricavato dell'asta, considerata una delle più importanti del secolo, sarà distribuito fra una decina di organizzazioni di beneficenza. Secondo alcune stime preliminari, con la vendita potrebbero essere raccolti fino a 500 milioni di dollari, una cifra superiore ai 484 milioni di dollari dell'asta della collezione di Yves Saint Laurent, definita finora l'asta del secolo. Per chiudere, vi ricordo che in campo la nazionale italiana per un amichevole contro l'Uruguay, per il momento l'Italia conduce per 1-0. Bene, direi che il riassunto della giornata è completo, almeno per quanto riguarda i fatti principali in Italia e all'estero. Possiamo cominciare tra pochissimo, dopo la viabilità, allora ad affrontare alcuni argomenti in particolare con gli ospiti. Per i vostri messaggi vi ricordo c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte e il numero per messaggi WhatsApp, che è 349-238-6666. Rassicuro un ascoltatore che dice: ma dov'eri? Sono già tornata da ieri, tutto bene, grazie. E poi qualcuno sta scrivendo: Renzo, no, ma dice Effetto Notte, Effetto Renzi, dice: perché non date voce a chi è contro la legge sull'obbligatorietà dei vaccini? Tanto vale cambiare titolo Effetto Notte a Effetto Renzi. Tanti saluti, non capisco perché Effetto Renzi. In ogni caso, tra poco sentiremo il virologo dell'Università degli Studi di Milano, però vi ricordo anche che Radio 24 da lunedì prossimo avrà degli approfondimenti, il nostro viaggio sui vaccini nel giornale radio delle 7, e poi vari approfondimenti durante il giorno in cui ci saranno le posizioni pro, le posizioni contro, vari approfondimenti, spiegazioni su tutti gli aspetti di questa legge sulle vaccinazioni. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ed eccomi di nuovo da voi, Roberta Giordano, nel vostro appuntamento fisso, serale, spero, la vostra colonna sonora della sera dalle 21 alle 22 con le notizie più importanti dall'Italia e dal mondo, soprattutto gli approfondimenti con gli ospiti. Seguite sempre puntualmente alle 21, in modo che un giorno non potrete dire: io non lo sapevo, a proposito di una notizia importante. Tra poco parleremo di legge elettorale, poi gli argomenti, come vi ricordavo all'inizio, sono molti, parleremo anche di vaccinazioni, vedo molti vostri messaggi anche su questo argomento. Rosanna, per esempio, esempio, dice: sono pienamente d'accordo con l'obbligo delle vaccinazioni, avrei usato pugno duro, i bambini non vaccinati non possono entrare a scuola, altro che sanzioni, prima viene il diritto alla salute, dice Rosanna. E poi Luigi: grazie Roberta per l'utile servizio che fai, grazie anche a Radio 24 per le notizie sempre utili, eccetera eccetera. E vi ricordo che appunto sui vaccini poi ci sarà il viaggio di Radio 24 da lunedì nel GR delle 7 e poi vari approfondimenti durante il giorno. Tra pochissimo parliamo, dicevo, di politica. Scrive un ascoltatore, potete scrivere sia al 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp e SMS, oppure appunto sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Dice questo ascoltatore: purtroppo per poter votare bisogna che tutti i partiti scendano a compromessi, i puristi invece sono quelli che non vogliono rinunciare ai vitalizi, dice questo ascoltatore. Anche Mattarella, se non sbaglio, nei giorni scorsi diceva: il compromesso, insomma, deve essere considerato una parolaccia, e bisogna superare questo tabù, questo pregiudizio, perché in democrazia ci deve essere il compromesso, riuscire insomma a avere ampio consenso su delle decisioni. Qualcun altro invece dice, per esempio, se con questa legge elettorale, che insomma non ne uscirà nessun partito con la maggioranza per governare, porterà a una diciamo coalizione forzata, per esempio tra PD e Forza Italia, questo significa che il PD come centrosinistra snatura ancora di più e piccona di più la sua parte di sinistra. Insomma, vari punti di vista, ne parleremo tra pochissimo di legge elettorale, però se non avete acceso puntualmente alle 21 vi ricordo comunque i fatti principali. Comey inguaia Trump, l'ex capo dell'FBI, e dice: mi chiese di non indagare su Flynn, cioè quello che era il responsabile della sicurezza nazionale. Questo lo scrive in anticipo per l'audizione di domani sul Russiagate. E poi il voto dei franchitiratori contro la legge elettorale, Grillo frena e dice: la vogliamo ma serve un nuovo voto online, ne parleremo tra pochissimo. E poi attacco terroristico al cuore dell'Iran, l'ISIS fa strage. La Gran Bretagna al voto domani, nella paura, e c'è la grande sfida tra Theresa May e Jeremy Corbyn, scontro, intanto polemica sul flop della polizia. Dimenticata dalla mamma in auto ad Arezzo muore una bambina di un anno, la donna era convinta di averla portata all'asilo. E poi Consip, l'inchiesta Consip, il vicecomandante dei NOI indagato per depistaggio, Renzi dice: si scopre che c'è un reato odioso e tutti zitti. A proposito di depistaggio, obbligo di vaccini a scuola. A scuola Mattarella firma il decreto, sono 12 quelli obbligatori. Quindi legge elettorale, 4736esima puntata, vi riepilogo giusto un po' quella di ieri. Il testo di questa legge elettorale, che è un modello tedesco un po' rivisitato, è frutto dell'accordo tra quattro maggiori forze politiche, che sono il PD, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Lega. Una discussione che ha riscosso ieri un grande successo, ieri approdata in aula alla Camera questa legge, grande successo, dicevo, perché c'erano 15 deputati presenti su 630. In ogni caso, un duro attacco a questa intesa arrivata ieri dall'ex presidente Napolitano, che ha bollato l'accordo definendolo patto extracostituzionale fatto da quattro leader solo per le loro convenienze. Alfano, alleato di governo del PD, ha definito il testo incostituzionale. Beppe Grillo prima ha detto che non si capiva niente su questa legge, poi ieri ha invece corretto dicendo: ci abbiamo messo la faccia, andiamo avanti. Oggi però lo scenario è ancora più confuso, perché tra franchitiratori e Movimento 5 Stelle, che vuole sottoporre il testo ulteriormente al voto online dei suoi iscritti, insomma, chiedo al nostro Vincenzo Miglietta in diretta da Roma: traballa quindi l'intesa? Ciao Vincenzo. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Diciamo sì, effettivamente questa intesa traballa, ha traballato nell'arco dei lavori parlamentari oggi alla Camera. Al momento si è raggiunto un primo compromesso della serata, ovvero tutte le forze politiche sono state d'accordo nel rallentare in questi nel ritmo delle votazioni. Si doveva chiudere inizialmente entro venerdì, poi si è parlato di lunedì, a questo punto invece si arriverà addirittura a martedì. Per il voto finale. Però dicevi giustamente, l'intesa PD, Forza Italia, Lega e 5 Stelle oggi ha veramente rischiato di naufragare, perché vittima soprattutto di 100 richieste di voto segreto su altrettanti emendamenti. Cosa è successo? Che già sulle pregiudiziali di costituzionalità si sono palesati 66 franchi tiratori, ovvero alla maggioranza che è dietro questa nuova legge elettorale, sommando i voti potenziali, sono mancati 66 voti. Da qui le reciproche accuse tra i vari partiti, e in tutto ciò si è innestata la richiesta del Movimento 5 Stelle di modificare ulteriormente la legge elettorale, soprattutto laddove Grillo vorrebbe inserire il voto disgiunto e le preferenze. Dall'altra parte il PD ha replicato che la legge non si tocca, che l'accordo è quello che è stato siglato in Commissione Affari Costituzionali. Qualora si dovesse modificare quell'intesa, dice il PD, allora si tornerebbe al cosiddetto Rosatellum, che, Roberta, ti ricordi, è quella prima proposta avanzata dal PD che ha una connotazione soprattutto maggioritaria. Sì, insomma, stilata da Rosato. Senti, vogliamo sentire Guerini del PD che cosa ha detto, diciamo, se qui qualcuno si sfila si torna, proprio quello che dicevi tu, sentiamolo. Il Partito Democratico è una forza seria, responsabile ed è impegnato a portare fino in fondo il cammino della legge elettorale. Uguale serietà e responsabilità chiediamo alle altre forze politiche, alle forze che hanno votato il testo in commissione. Chi si sfila rischia di far saltare la legge elettorale. Il Partito Democratico farà fino in fondo la sua parte. Ecco, Vincenzo, e tra l'altro Bersani ha detto un po', almeno per quanto riguarda il voto disgiunto, la stessa cosa chiedeva del Movimento 5 Stelle. Lo spieghi brevemente cosa si intende per voto disgiunto? Allora, per voto disgiunto intendiamo che l'elettore può votare o la singola persona o il partito. Non necessariamente, se io voto il nome di Roberta, faccio un esempio, deve essere dietro a questo nome, deve per essere forza per partito. Forza tirarsi dietro il partito di appartenenza. Io posso votare una persona perché a me piace quella, ma non voglio premiare il partito. Mentre invece attualmente in questo modello che si rifà al modello tedesco, le due cose sono strettamente unite. E invece Bersani, il Movimento 5 Stelle vorrebbero che queste cose fossero, queste due opzioni fossero disgiunte. Vedremo un po' come prosegue la partita, nel senso, appunto, dicevi, il voto finale martedì, cosa c'è ancora. Però ecco, l'elemento che dobbiamo sottolineare è che le maggiori incertezze, ma è un dato di fatto, sono all'interno del Movimento 5 Stelle, perché ricordiamo che questo modello tedesco è stato già sottoposto al giudizio online degli aderenti al Movimento 5 Stelle, e Magrillo lunedì farà ripetere questa votazione, perché dice vogliamo che il nostro popolo si riesprima un'ultima volta su quest'intesa. Che ratifichi definitivamente. Evidentemente, quindi, Roberta, qualcosa... Sì. È un po' un po' modo di Grillo di far digerire forse qualcosa che è più ortodossi non va giù al momento, certo. Grazie Vincenzo Miglietta da Roma. Ciao Vincenzo. Grazie. Ciao, buon lavoro. Sentite l'audio degli spari, dell'attacco terroristico oggi in Iran, un doppio attacco in realtà, coordinato, che è avvenuto questa mattina a Teheran, la capitale iraniana. È prima una sparatoria all'interno del Parlamento iraniano, poi un attacco suicida al mausoleo dell'Ayatollah Khomeini. Il bilancio complessivo, anche se è ancora incerto, sarebbe di 12 morti e 42 feriti. Sono stati uccisi anche i 7 terroristi, alcuni uccisi, alcuni si sono suicidati. L'ISIS ha subito rivendicato questi attacchi a Teheran e, se confermato, si tratterebbe quindi del primo attentato di questo tipo in Iran. Le autorità iraniane hanno fatto sapere anche di aver sventato un terzo attacco, e la guida suprema iraniana, che è l'Ayatollah Khamenei, ha detto i terroristi saranno eliminati con l'aiuto di Dio, sottolineando che gli attacchi terroristici non condizioneranno la volontà del popolo iraniano. In questo coinvolgo Annalisa Perteghel, che è ricercatrice dell'ISPI. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Quindi quello che ci si chiede è, per quelli meno avvezzi, diciamo, a studi di geopolitica, allora l'ISIS, si sa, l'integralismo islamico ha attaccato e continua ad attaccare l'Europa, purtroppo il sedicente califfato ha avuto mire e continua ad avere in Iraq e in Siria, anche se insomma si sta portando per esempio in Siria l'attacco finale a Raqqa per riconquistare da parte delle milizie curde con l'aiuto degli Stati Uniti la città. E uno si può chiedere perché contro l'Iran, che alla fine è uno stato islamico, come mai questo attacco, con quale obiettivo da parte dell'ISIS, Perteghella? Beh, Qui proprio è proprio questa la particolarità di ISIS, nel senso che fin alla proclamazione del califfato nel 2014 ISIS si è dato un obiettivo preciso che è appunto l'instaurazione del califfato islamico globale strettamente sunnita, e ISIS ha più volte in questi perché anni la, mi scusi, la sento piuttosto male, non so se il telefono sì. Si tratta di spostare il telefono, sì, riproviamoci, sì. Mi sente? Sì. Dicevo che è proprio la peculiarità di ISIS il fatto di avere più volte rivolto delle minacce all'Iran, paese persiano sciita. Questo per esempio non è mai accaduto con Al-Qaeda. Ricordiamo che tra ISIS e Al-Qaeda oggi è in corso una lotta per l'egemonia all'interno del mondo, diciamo, integralista sunnita, e uno dei punti di contrasto è proprio l'ostilità verso gli sciiti, che non è propria di Al-Qaeda, invece è propria di ISIS. E l'Iran, che è coinvolto in maniera molto consistente sul terreno in Iraq e in Siria proprio contro lo Stato islamico, è niente. C'è qualche problema, evidentemente. Riusciamo a recuperare Annalisa Perteghella per parlarci di Iran. Insomma, comunque stava spiegando che è una guerra che in realtà dura da decenni, se non oltre, se non di più, tra sunniti e sciiti, che sono sempre all'interno del mondo islamico, e l'Iran rappresenta un po' il cuore del mondo sciita, mentre l'Arabia Saudita è sunnita. In qualche modo centrerà anche l'Arabia Saudita in questi attacchi. Adesso, se riusciamo a recuperare la dottoressa Perteghella, glielo chiediamo. Rieccoci, ecco, qualche problema con questo cellulare, insomma, cose diciamo di ordinaria amministrazione. Quindi stava spiegando, sì. Non so a che punto si è interrotta la comunicazione, comunque dicevo che è proprio la peculiarità di ISIS quella di diciamo prendersela anche con l'altra parte dell'Islam, quello sciita, quello rappresentato dall'Iran. E il fatto che gli attacchi di oggi si siano svolti in due luoghi emblematici, il Parlamento, che è simbolo del potere politico istituzionale, ma anche della, diciamo, chiamiamola democrazia, pur con molti difetti, iraniana, perché in Iran si vuole il mausoleo dell'imam Khomeini, che rappresenta appunto la faccia religiosa dell'Iran. Il suo telefono ci fa degli scherzi, perché quindi stava dicendo quindi due luoghi simbolo: uno il Parlamento iraniano, che pur con tutti i suoi difetti, i suoi limiti, rappresenta in qualche modo una specie di democrazia, e poi il mausoleo dedicato a Khomeini, no, l'ayatollah. Esatto, Khomeini. Quindi il lato religioso dell'Iran, quindi si è voluto, secondo me, attaccare quello, cioè il modello iraniano, questo connubio di... Ma perché non è sufficientemente integralista? Qual è la questione? No, perché per ISIS ha questa diciamo interpretazione a livello dottrinale estremamente dogmatica, che si rifà a un tipo di Islam salafita, l'Islam più integralista, per cui gli sciiti sono etichettati come eretici. È un po' come se, passatemi il termine, all'interno del cristianesimo scoppiasse una guerra per cui i cattolici dicono che i protestanti sono eretici. Molto semplificando, la vera novità appunto non è che ISIS se la sia presa con l'Iran, perché da anni che ci prova. La novità è che questa volta ci siano riusciti, ammesso effettivamente che siano stati loro. La rivendicazione c'è, però certo. Poi, cioè, esatto, è facile, per ISIS è molto facile mettere il cappello su molte cose, poi sì. In realtà bisogna indagare, i terroristi verranno, diciamo, interrogati con metodi iraniani nelle prossime ore, per cui... Infatti mi pare che ci siano stati 5 arresti, leggevo poco fa, 5 arresti, ha detto la polizia iraniana. Per te, una cosa, sinteticamente, allora, i deputati del Parlamento, mentre avveniva questo attentato, e poi dopo hanno fatto vedere che loro continuavano comunque a lavorare, hanno gridato morte all'America, morte al suo servo l'Arabia Saudita. Perché? Questo è direttamente collegato a quello che è successo, a quello che sta succedendo in Medio Oriente negli ultimi 15 giorni, insomma, a questa parte dopo la visita di Trump, con la visita a Riyadh di Trump, in cui è stata lanciata questa nuova sacra alleanza antiterrorismo, indicando come principale paese sponsor del terrorismo proprio l'Iran, l'America di Trump ha chiaramente fatto una scelta di campo, ribaltando quella che era stata invece la strategia di Obama di riaprire all'Iran. Trump ha fatto una scelta di campo, ha scelto di stare con l'Arabia Saudita e niente, abbiamo problemi con questo telefono. Per te, un'ultima cosa: l'Arabia Saudita è sunnita o sciita? L'Arabia Saudita è sunnita. Sunnita, ecco, perché c'è un'ascoltatrice, sì. Non è sunnita, mi ricordavo bene che fosse sunnita l'Arabia Saudita. Comunque, insomma, tutto legato alle tensioni in quell'area, anche lei diceva il viaggio di Trump che ha rinsaldato i rapporti con l'Arabia Saudita e poi Arabia Saudita insieme a Egitto e altri stati arabi che hanno messo all'angolo il Qatar, dicendo che è il Qatar che alimenta il terrorismo e che in qualche modo quindi è in buoni rapporti con l'Iran. Quindi, insomma, è tutta una concatenazione di rapporti difficili nel Medio Oriente. Annalisa Perteghella, la ringrazio e la saluto allora. Grazie. Grazie a voi, buona grazie, serata. Buona serata. Vedo, continuo a vedere i vostri messaggi al 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, molti anche sui vaccini. Per esempio qualcuno dice, vediamo dov'è l'altro messaggio, dunque, sul sistema elettorale tedesco, vabbè, Walter dice sono stufo di questa manfrina sul sistema elettorale tedesco che alla fine credo finirà tutto nel nulla, staremo a vedere. E poi invece sull'autocertificazione, ecco, qualcuno diceva Rocco a proposito dei vaccini, ma di questo parleremo tra pochissimo. 349-238-6666 per i vostri messaggi oppure WhatsApp, e poi c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte alla quale potete aderire senza indugio e sulla quale vi ho messo varie informazioni dettagliate sulle vaccinazioni. A tra poco. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, e anche se volete con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Riprendiamo allora con il racconto delle notizie e l'approfondimento di certi argomenti. In specifico abbiamo parlato di legge elettorale che rischia l'accordo che sembrava fatto fino a ieri un po' di traballare. Vediamo come prosegue nei prossimi giorni la discussione, il voto sugli emendamenti, poi martedì ci dovrebbe essere il voto finale. E poi abbiamo parlato di Iran, degli attentati che ci sono stati oggi in Iran, il perché e il per come in un paese islamico appunto come l'Iran. Clotilde scrive, vi ricordo potete scrivere continuamente a pagina Facebook di Effetto Notte alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio oppure al 349-238-6666. Clotilde scrive: ma Trump non aveva detto che l'Iran finanziava l'ISIS? Grazie Trump, grazie di cuore, scrive Clotilde. In realtà Clotilde, guarda che diciamo un po' tutti questi paesi, persino si dice degli Stati Uniti, abbiano in qualche modo finanziato direttamente o indirettamente i terroristi contro un paese, contro l'altro, contro le fazioni, poi dopo si ritorce il tutto contro, come scrive, mi pare, un ascoltatore, in effetti Elvio, che dice: Iran per anni hanno fomentato e appoggiato il terrorismo, ora lo subiscono, l'integralista prima o poi trova sempre uno più integralista di lui, dice Elvio con questa massima. Vedo i vari messaggi poi sui vaccini di cui parleremo tra poco, adesso invece ci concentreremo sulla Gran Bretagna. Prima però vi ricordo i fatti principali se non avete acceso puntualmente alle 21. Terrorismo, attacco dell'ISIS a Teheran nel cuore del mondo sciita, i morti sono almeno 12, morti anche 5 terroristi. Gran Bretagna domani al voto nell'incertezza, monta la polemica sul flop della sicurezza, trovata anche l'ottava vittima, ne parleremo tra poco. Stati Uniti, nella dichiarazione scritta con cui aprirà domani la sua audizione in Senato sul Russiagate, l'ex capo dell'FBI Comey afferma: Trump mi chiese di fermare le indagini su Flynn, cioè quello che era il consigliere della sicurezza per Trump. Legge elettorale, i franchi tiratori minacciano l'accordo, Grillo frena, dice la vogliamo ma votino i nostri iscritti, vaccini, via libera al decreto legge sui vaccini obbligatori, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto. E poi tragedia ad Arezzo, muore una bimba di un anno lasciata chiusa in auto, dimenticata dalla madre che era andata a lavorare dopo aver parcheggiato. Calcio a Nizza, la nazionale sfida in amichevole l'Uruguay, sempre 1-0 per l'Italia. Quindi torniamo all'attacco terroristico di sabato 3 giugno a Londra. I morti sono 8, salgono ad 8 perché oggi è stato recuperato il cadavere di un cittadino francese nel Tamigi che era stato dato per disperso, ma col furgone che lo aveva investito era stato sbalzato nel fiume purtroppo. E monta intanto la polemica sui mancati controlli preventivi antiterrorismo. Youssef Zagba non fu fermato, il terrorista italo-marocchino, ne abbiamo parlato anche ieri, non fu fermato malgrado la segnalazione dall'Italia. E il capo della polizia italiana Gabrielli oggi ha detto: noi abbiamo le carte e la coscienza a posto. Tra l'altro oggi ha parlato anche la madre di Youssef, che è italiana, si è convertita all'Islam più di 20 anni fa, e ha parlato insomma di una vicenda atroce. La vogliamo sentire, si chiama Valeria, ha parlato all'Espresso. È una cosa orribile, c'è cioè una cosa che non deve succedere, non avrebbe dovuto succedere e non deve succedere più. E io, come detto ieri, farò il possibile per quel poco che posso fare per evitare questo. E ci vuole soprattutto grande educazione per i giovani. E tutto questo clima, insomma, di dolore, di tensione, di incertezza, domani si terranno le elezioni anticipate, le elezioni politiche in Gran Bretagna, sfida tra la prima ministra Theresa May e il leader laburista Jeremy Corbyn. E su questo coinvolgo Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore della Gran Bretagna. Ciao Leonardo. Buonasera a voi. Esito scontato oppure, come si sta dicendo nelle ultime ore, Corbyn potrebbe vincere la sfida, insomma arrivare lì diciamo con poco distacco? No, l'esito non è scontato, arriva scontato 5 settimane fa quando Theresa May aveva annunciato le elezioni anticipate, ma a questo punto, in primo luogo per la campagna completamente sbagliata fatta da Theresa May, che ha rivelato di non avere nessun grado di empatia col pubblico, di riuscire comunque a stabilire un rapporto, è apparsa fredda, distaccata, oltre a errori proprio di tipo programmatico, legati al programma. Ma al di là di questo c'è stata la questione della sicurezza, cioè gli attentati terroristici che avrebbero dovuto, come dire, portare sostegno a Theresa May, ma che in realtà sono stati ben, come dire, rilavorati dall'entourage di Corbyn, il partito laburista, sottolineando che se la sicurezza ha avuto dei buchi, come dicevate anche prima, questo dipende anche dal fatto che la May aveva imposto dei tagli massicci alle forze di polizia, soprattutto quelle sul territorio, cioè quelle che controllano, monitorano il territorio. Che monitorano. Quindi queste sono state le motivazioni per cui Jeremy Corbyn nelle ultime settimane è risalito violentemente nei sondaggi. C'è un sondaggio, uno solo, che però di YouGov, che è un istituto piuttosto serio, che sostiene che domani il Parlamento non avrà una maggioranza garantita, cioè che nessun partito sarà in grado di avere la maggioranza assoluta. Questo non è un paese di coalizioni, è un paese che è sempre vissuto con monopartito, un partito al comando e gli altri fuori, no? Ecco, questo non dovrebbe essere lo scenario, secondo YouGov questo non sarà lo scenario di queste elezioni. Va detto che è l'unico sondaggio, tutti gli altri sondaggi danno i conservatori in testa con margini diversi dal 6 al 10-11% dei voti, che dovrebbero garantire a Theresa May una maggioranza probabilmente non diversa da quella che aveva prima di convocare le elezioni. Poi potrebbe invece succedere quello che si era previsto inizialmente, cioè che il Partito Conservatore, sotto l'onda della stretta terroristica, sotto l'onda delle problematiche legate al Brexit, faccia davvero il pieno. I sondaggi in questo paese sbagliano spesso, quindi visto anche sulla Brexit. Quindi vediamo domani cosa nel concreto succederà, ci riaggiorniamo. Grazie Leonardo Maisano da Londra. Ciao Leonardo. Viabilità. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che adesso vi ricordo in pochi secondi, così passiamo subito all'altro tema. Roberto Giordano sempre con voi. Abbiamo parlato di Iran e dell'attacco dell'ISIS a Teheran, cioè nel cuore del mondo sciita, con almeno 12 morti, e sono morti anche i 5 terroristi. In Gran Bretagna domani si va al voto nell'incertezza. Monta la polemica sul flop della sicurezza, ne abbiamo appena parlato, e cioè potrebbero esserci delle sorprese da queste elezioni. Stati Uniti, nella dichiarazione scritta con cui aprirà domani la sua audizione in Senato sul Russiagate, l'ex capo dell'FBI Comey, silurato da Trump, afferma: Trump mi chiese di fermare le indagini su Flynn, che era responsabile della sicurezza. Legge elettorale, i franchitiratori minacciano l'accordo, Grillo frena e dice: la vogliamo, ma votino i nostri iscritti. Vaccini, ne parleremo tra pochissimo. Tragedia ad Arezzo, muore una bimba di un anno lasciata chiusa in auto, dimenticata dalla madre che era andata a lavorare dopo aver parcheggiato. E poi per il calcio, a Nizza prosegue l'amichevole tra Italia e Uruguay con l'Italia in vantaggio di un gol. Parliamo quindi di vaccini, perché il Presidente della Repubblica Mattarella oggi ha firmato il decreto, l'obbligo delle vaccinazioni per la frequenza a scuola. È stato varato per far fronte all'abbassamento della copertura vaccinale in Italia e all'emergenza morbillo in Italia. Diventeranno obbligatorie nella fascia di età tra 0 e 6 anni. Saranno 12 in tutto queste vaccinazioni obbligatorie, raggruppate in 4 iniezioni secondo una precisa tempistica. Il genitore potrà anche autocertificare l'avvenuta vaccinazione. Ma per andare più nel dettaglio coinvolgo subito il professor Fabrizio Pregliasco, che saluto. Buonasera professore. Buonasera a tutti. Che è virologo presso il Dipartimento di Scienze Biochimiche per la Salute dell'Università degli Studi di Milano. Professore, allora ci sintetizza un po' gli aspetti salienti di questo decreto? Ma sostanzialmente si sono date delle indicazioni per rendere più semplice, meno, come dire, angosciante, se vogliamo, perché era stato poi vissuto così questo decreto rispetto al prossimo anno scolastico e all'iscrizione all'asilo nido, alla scuola materna e alla scuola. Quindi si è chiarito che quindi si potrà fare un'autocertificazione, che il numero di vaccini dipenderà anche dall'anno di nascita del bimbo, sarà possibile anche documentare l'avvenuta immunizzazione naturale attraverso la malattia e quindi l'esonero dalla vaccinazione. Quindi quanto credo sia necessario per rendere soprattutto, appunto, come dicevo, il prossimo anno scolastico qualcosa di tranquillo. Quindi sarà possibile dimostrare con un'autocertificazione o semplicemente con la prenotazione della vaccinazione nei tempi anche tranquilli e sereni di una vaccinazione, perché non c'è un'emergenza che necessita istantaneamente di coprire tutti i bimbi velocemente, esagerando, ma semplicemente riattivando quello che era un po' il motivo di questa medicina amara, se vogliamo, quella di rilanciare la necessità di effettuare in modo sistematico le vaccinazioni nei bimbi. Che erano obbligatorie fino al professor Pregliasco? Allora, lo erano già 4 obbligatorie, ma di fatto si era diluita l'obbligatorietà. Oggi sono 4 i vaccini per 12 malattie, e di fatto l'obbligo più stringente sarà quello rispetto alle scuole materne, che sono opzionali, e quindi lo Stato ha potuto in qualche modo dire, forzare, se vuoi venire ti vaccini. Mentre sulla scuola dell'obbligo, che è un diritto di dovere costituzionale per tutti i cittadini, bimbi, italiani, andare a scuola, non sarà impedito, ma eventualmente ci saranno appunto momenti di tentativo di informazione, di coinvolgimento, di convincimento, e poi, come si è detto, multe ed eventuali anche segnalazioni al giudice tutelare. Ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che poi sulla pagina Facebook di Effetto Notte ci sono poi tutti i dettagli. A proposito di sanzioni, professor Pregliasco, ci sono delle multe piuttosto salate e si può arrivare sino alla sospensione della potestà genitoriale, no? Questo alla luce proprio della scuola dell'obbligo, perché come dicevo, se non c'è l'autocertificazione, se non c'è la promessa di vaccinare e la verifica di vaccinare successivamente a fine dell'anno prossimo un'attestazione dell'effettiva effettuazione, nella scuola materna dell'obbligo non si entra. A scuola si entra comunque, però appunto sanzioni che vanno dai 500 ai 7.500 euro in funzione anche diciamo, saranno parametrate alla quota di mancanza, tra virgolette, di vaccini e anche dell'ostinazione nel voler, come dire, collaborare, informarsi e in qualche modo arrivare a quello che lo Stato desidera per un suo interesse, per un nostro interesse. Le vaccinazioni sono una solidarietà applicata al proprio bimbo, a ognuno di noi, perché insieme eliminiamo delle malattie che solo se la vaccinazione è ampia, massiccia, salvo quei pochissimi e rari casi di bimbi che non possono essere vaccinati per problemi di salute, che in qualche modo difendono la comunità. Professore, abbiamo ancora un minuto, proprio le faccio due domande velocissime. L'autocertificazione, dice Rocco, fatta la legge, trovato l'inganno, valvola di sfogo al genitore contrario al vaccino. Sarà qualcosa proprio per evitare le angosce, la ricerca di certificati, ma ci sarà una verifica nel marzo del 2018 e a questo punto sanzioni successive, in qualche modo un restringimento. Però credo che questo era necessario, perché tra l'altro la maggior parte dei bimbi è sostanzialmente in regola, si tratta di quella quota di genitori che non è coperta. Professore, siccome qualcuno dice, tra coloro che hanno paura, ci sono i metalli pesanti dentro i vaccini, i medici sono i primi a non sapere di cosa sono composti, mi dà proprio in 30 secondi questa... No, era una qualcosa pesanti. Che è emersa da una segnalazione dal basso di Facebook, dei social. Nel passato c'era il mercurio e da anni che non c'è più ed era un conservante. Assolutamente i vaccini sono controllati, verificati e di qualità, diciamo così, certificata per evitare danni. Qualche effetto collaterale c'è, è inutile negarlo, ma assolutamente irrilevante rispetto ai vantaggi complessivi per la comunità, ma per i bambini. Grazie professor Fabrizio Pregliasco, grazie e buon lavoro. Poi vi ricordo tutti i dettagli anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte e poi Radio 24 dalla prossima settimana con un viaggio. Ci sentiamo tra poco.